Polifemo è un grande orco barbuto e con un solo occhio. Si racconta che quando Odisseo e i suoi compagni, sfiniti dopo la guerra di Troia, si imbatterono in una grotta dove si trovava Polifemo, non esitò a mangiare i colleghi di Odisseo, ma scogitò un piano per accecarlo e scappare dalla grotta. Prima Polifemo era innamorato di Galatea, ma anche ad Aci piaceva anche lei. Loro si prendevano gioco di Polifemo, così l'orco uccise Aci. Il suo sangue cade in un ruscello, al quale Galatea diede il suo nome.